sorprendermi il cor, bella Selinda, splendere il tuo bel viso, la più serena idea che mai scendesse dall'alte sfere ad illustrar la terra. Senti, libera io nacqui, e nelle vene ho un sangue che più volte fe vacillar in fronte alla tua Roma i combattuti amori. Questo sangue val soffre della fortuna. Qualche cosa tordisci degna di te, degna di me. Ma se tu non palesi il tuo desio, valle e pensaci bene.